Lei è qua, falsità come radioattività, che mentre c'è da osare uccide lo spettacolo carnale e l'anima brucia. Più di quanto illumini, ma è un addestramento mentre attendo che io m'accorga che so respirare, che sei il mio sovversivo. Segno, il fallimento è un grembo e io ti attendo mentre ti scordi che vuoi.